se dovessi trovare una macchina dei tifosi della Juve che bucano una ruota, io mi fermo e li aiuto. Massimo, Massimo, possiamo centrare un posto in Champions. Chiedo a lei, che conduce una trasmissione così credibile, se io... Tutti convocati di Carlo Genta. Buongiorno a te, mitico Carlo. Ciao ragazzi, 800240024, siete convocati anche oggi, Franco Piantanida, autore di questo programma, Roberto Scaltriti in regia. Ci sono, non so se siete soddisfatti dell'esito delle elezioni che vi abbiamo raccontato anche ieri in questo spazio. Oggi torniamo per convocarvi tutti, non sulle elezioni, per carità. Anche se per la verità ci sono un sacco di cariche disponibili in questo momento nel nostro paese, e ieri abbiamo assistito al ritorno di un re. Non mi domandate per favore di questioni fiscali, perché non ci capisco niente. Parliamo, se volete, di un'icona napoletana, di Napoli-Juventus che è dietro l'angolo, della voglia di Diego espressa di prendere il posto di Mazzarri. Ma perché il re è tornato? Sentiamo. Tutti quanti in questa vicenda, e chiamese Coppola, chiamese Franci, chiamese Ferlaino, chiamese Gallo, padre, figlio, tutti quanti hanno fatto il contratto mio. Io mi dedicavo solo a andare in campo la domenica. E l'unico che stanno dietro è a me. Vengo a chiedere alla giustizia italiana lasciarmi camminare per l'Italia, perché, ripeto, non ho ammazzato nessuno. È l'appello accorato del re in esilio. Meno male che ha detto: io mi occupavo soltanto di andare in campo alla domenica, non di fare allenamento tutti i giorni, perché quello era poco credibile, caro grandissimo Diego. Ma come detto, c'è anche un Napoli-Juventus dietro l'angolo, al quale Diego, che è ripartito per Dubai, non assisterà, anche perché ha detto De Laurentiis mai mi ha invitato a una partita del Napoli. Che la Juve vince lo scudetto, quello si sta per vedere. Il Napoli deve stare lì, alla caccia della Juve, perché non ti credere che la Juve è più del Napoli, No, non è più del Napoli, solo che la Juve è pratica, arriva una volta e fa due gol. 800240024, voglio sentire anche voi, non solo napoletani, sulle dichiarazioni di Re Diego. Si dice, si sente, l'avete sentito anche nel giornale radio, letto sui giornali, che Bersani parla con Grillo. È tempo di candidature. E allora perché non questa del Pibe d'Oro? Non sono neanche uno che sta pensando nella panchina del Napoli, perché sarebbe come mancare il rispetto a Mazzarri. Quando Mazzarri va da via, lì... Il mio sogno è... Sta Mazzarri. Sta Mazzarri, mi hanno detto che la Roma e l'Inter stanno per vendere Mazzarri. Magari. Diego Armando Maradona, uno dei personaggi più mediatici nello sport di ogni epoca, forse il più mediatico di tutti. Francesco De Luca, inviato del Mattino. Ciao Francesco. Buongiorno. Autocandidatura di Re Diego, tanto è il momento, insomma, ci sono un sacco di cariche vacanti in questo paese, magari sarà vacante anche la panchina del Napoli. Tu come lo vedresti su quella panchina? Bisogna dare una risposta di testa o di cuore, perché dovendo dare una risposta di cuore, avendo parte, insomma, essendo io napoletano, ma avendo cominciato a fare questo lavoro proprio ai tempi di Maradona, direi che lo vedrei benissimo. Poi bisogna dare una risposta di testa, secondo me, perché si parla di cose importanti, perché il calcio è qualcosa di importante, soprattutto in questa città, e allora bisogna ricordare che, insomma, la carriera da allenatore di Maradona fin qui non è stata brillantissima, anzi è stata costellata da fallimenti come quello ai mondiali del Sudafrica. E Diego ha fatto male anche negli Emirati Arabi, però detto questo, insomma, gli auguriamo una grande carriera, però lontano da Napoli, perché credo che per lui sarebbe particolarmente complicato, al di là delle sue capacità, poi gestire il rapporto con la città, con la tifoseria. È un personaggio troppo grande per poterlo sedere su una panchina. Senti, ma io ti butto lì invece una soluzione di mezzo. Sono d'accordo che è un personaggio troppo grande per farlo sedere su una panchina, però giusto per continuare a sognare, Maradona che va in panchina e un allenatore magari di esperienza che lavora sul campo, quindi un Maradona parafulmine, un Maradona ruffapopolo, un Maradona simbolo. No, io credo che di questo non ci sia bisogno. Maradona deve essere ed è un grande amico del Napoli, e a me dispiace che insomma, ascoltare nelle cose che ha detto Maradona con grande affetto nei confronti di Napoli, dei napoletani, del Napoli, in quel passaggio io non sono mai stato invitato da De Laurentiis. Questo stona perché, al di là di quello che è il problema di Maradona, il suo rapporto con il fisco, non si può pensare che il più grande calciatore della storia, che il Napoli ha avuto la fortuna di avere qui per 7 anni, non sia un abituale frequentatore dello stadio. Insomma, ecco, sotto questa veste, insomma, Maradona starebbe benissimo nel Napoli. Con un incarico dirigenziale, francamente, non saprei dirlo, perché non l'ho mai insomma, testato sotto questo aspetto, mentre credo che, insomma, i risultati da allenatore siano stati abbastanza infelici, e quindi questo puoi esprimere in questo senso un questo sì, ma poi c'è anche da capire se De Laurentiis no, ne avrebbe voglia. Ma io, per carità, facevo un discorso, un ragionamento che riguardava il tifoso, che riguardava l'ex calciatore, l'ex capitano, l'ex campione. Insomma, io credo che il Napoli un rapporto con Maradona, un sereno rapporto, che non necessariamente debba essere un rapporto commerciale o economico, è giusto che lo abbia. Io non sono d'accordo con chi scrive: se a voi fa ridere, a me mette profonda tristezza vedere un campione del genere ridotto a una macchietta. Non mi sembra che Maradona sia ridotto a una macchietta. No, assolutamente. Guarda, Maradona è comparso sulla scena tante volte e ci è sembrato una macchietta. Poi, insomma, tutti sapevamo quali erano i suoi problemi, i suoi gravissimi problemi di salute, i suoi problemi psicologici, la tossicodipendenza. Adesso mi sembra un uomo sereno, mi sembra un uomo che venga in Italia a difendere i propri diritti, perché i diritti è giusto che lui li difenda in prima persona. Maradona giustamente dice: io ci ho messo la faccia sempre, l'ha messa anche stavolta. Insomma, i suoi discorsi possono essere condivisibili, come tutti i discorsi di ognuno di noi, però sta di fatto che, insomma, averlo rivisto qui, anche se per poche ore, per pochi giorni, è stato un piacere per i napoletani, e non capisco poi perché questo piacere debba essere negato. Oggi ho letto con grande attenzione l'articolo che lo scrittore Henry De Luca ha scritto sulla Gazzetta dello Sport, e credo che sia perfetto, insomma, sposi in pieno quello che è il sentimento dei napoletani nei confronti di Maradona. Ma certo, non si capisce perché questo amore non debba essere rivendicato con tutta la forza possibile. Esatto, no? Esatto. Ma poi è un'attrazione, una simpatia reciproca, è un affetto, è il vecchio amico che ti viene a trovare a casa, che non ti chiede niente, perché Maradona non ha chiesto voti, non ha chiesto soldi, è venuto qui a fare una conferenza a differenza di qualcun altro, Sì, a difendere un suo diritto, e questo bisogna lasciarglielo, e poi a parlare con grande entusiasmo di questa squadra. Insomma, io sono sicuro che se lui avesse potuto sarebbe stato certamente al San Paolo, perché ma lo avrebbe molto emozionato la, una sfida alla Juventus. Sì, anche se poteva essere un, così, un riflesso pericoloso per il Napoli. A mio questo è vero, perché poi bisogna dare la parola ai protagonisti di oggi, che sono grandissimi protagonisti e nel Napoli e nella Juventus. Benissimo, grazie Francesco. Buon grazie lavoro. A voi. Arrivederci. Buon lavoro a, voi. A Francesco De Luca del Mattino. Poi sentiremo altre dichiarazioni di Maradona, ma parleremo anche dell'affondamento della portaerei blaugrana, silurata tre volte da Mourinho. Adesso Iniesta dice: mano sul fuoco, che il 12 marzo siamo pronti e battiamo il Milan e passiamo il turno. Vediamo, perché ieri si è visto un Barcellona allo sbando. Parleremo anche di un attore cinematografico ad Appiano Gentile. State con noi, 800 24 00 24, tutti convocati qui. Non sono venuto a mangiare a casa di Laurenti né del sindaco. Di Laurenti non ho ricevuto mai un invito per vedere una partita del Napoli. Tutti convocati. Ho capito che adesso cominciano le scaramucce, ma io sono pronto. Che giornalista sei se parli di Maradona come simbolo? Simbolo del male, solo un povero ignorante drogato come giocatore, bravo come allenatore, una nullità. Ditelo a quelli di Napoli, non facciamo troppi moralisti. Certamente Maradona ha fatto molti errori nella sua vita, sono errori pubblici, li ha pagati tutti, così come molte rockstar che hanno pagato molto meno, così come molti attori, così come molti giocatori di calcio o di altri sport. Provate a dirlo ai napoletani se Maradona è un simbolo del male. Giorgio Pesaro, buongiorno. 800 24 00 24, numero verde. Buongiorno, io mi sento un po' in difficoltà a parlare di Maradona, sono di Pesaro, quindi le cose ne vedete già tante. Credo che il passato ti faccia leggere a chi viene, no? Lui è stato bravo, un grande come calciatore, questo però lui stesso ha detto che vorrebbe allenare il Napoli, ma mi sembra che proprio come allenatore non abbia fatto con l'Argentina dei grandi successi. Lo vedo in questo momento fuori luogo, penso al lato umano, al lato il carattere dei napoletani che lo possono amare, per l'amor di Dio, però ecco, il costruire un qualcosa su quest'uomo in questo momento mi sembra un po' troppo azzardato. E il signor De Laurentiis non è uno stupido, penso che l'abbia capito. Sì, non so in che condizioni sia in questo momento Maradona, ecco. Però la sensazione che mi ha fatto è stata quella di un uomo piuttosto sereno. Certo è che i risultati ottenuti come allenatore sono lì da leggere, Maradona non è un grande allenatore, però quello che dicevo io prima, anche parlando con Francesco De Luca, è Maradona simbolo, in panchina, uomo carismatico, tutto quello che volete, e un allenatore di campo vero, mi viene in mente Ciro Ferrara, ma può essere un altro che lo affianca, che svolge il lavoro sul campo, insomma una conduzione a due teste, una più mediatica, più carismatica, più da cuore del Napoli, una più di cuore e l'altra più di testa e di campo. Questo, perché no, può essere una soluzione limite, una soluzione bizzarra, può essere una soluzione, anzi sono quasi certo che è una soluzione che De Laurentiis non piace poi tanto. Però insomma, Maradona ha rappresentato e rappresenterà sempre qualcosa per il Napoli. Poi apre la finestra e dice: a me non mi compra nessuno, lo ha fatto ieri, finestra d'albergo, sotto un sacco di gente, non mi compra nessuno, io sono napoletano. Lui sa anche come toccare le corde del cuore dei napoletani. Poi tra cuore e testa c'è un bel passaggio, insomma, quindi Dieghito è e rimarrà sempre un grande personaggio, ripeto, anche mediatico, come ce ne sono pochissimi. Chiaramente non è un grande allenatore di calcio, e su questo penso si possa essere tutti d'accordo. Sentiamo anche qualcosa di quello che ha detto, è uno degli argomenti che più mi divertono. Io devo confessare il mio lato infantile. 800 24 00 24, cari amici ascoltatori, confesso il mio lato infantile, e le diatribe, i battibecchi tra Maradona e Pelé mi fanno impazzire, anche perché io sto tutta la vita con El Pibe. Mia madre, quando era in vita, mi diceva: perché che ti paragonano con Pelé. E tu sei più forte. Pelé giocava con giocatori che non si muovevano in campo. Mauro? Sì. Buongiorno. Buongiorno. Dica. Cosa dire? Maradona fa battere il cuore. Non se ne può parlare bene, male. Esatto. Bianco, nero, ma fa battere il bianco, cuore. Bianco, nero, divide più i guelfi e i bellini. Azzurro. Azzurro. Una cosa, io un'opinione ce l'ho. Io ho avuto la fortuna di vederlo giocare sola volta. Lei una sola volta, io tante volte, perché ero talmente affascinato da questo giocatore che andavo a cercarlo in ogni stadio d'Italia quando potevo. Ero molto giovane, però a prescindere dalle bandiere, io volevo vedere giocare Maradona, come poi mi sono divertito a cercare in vari stadi Ronaldo o Van Basten. Insomma, erano giocatori che, a prescindere dalla maglia che portavano, erano emozione sì, allo stato puro. Come le conte del padel tennis, come... Ma sì. Però una cosa... Artisti, sempre, bravo. L'ho sempre... un'opinione che ho sempre avuto, tifoso del Napoli, quindi di partissima, non di parte. La dicevo anche l'altro giorno un mio conoscente, sì, grande calciatore uomo, ma uomo cosa? Ma quanta gente si ammazza la vita alle macchinette? Quanta gente rovina le proprie famiglie? Quanta gente, eppure si ha una parola di comprensione, di compassione per tutti, Maradona è il male, o il bene o il male, no, è un uomo, un grande artista, come... La definizione giusta probabilmente la diede Sgarbi una volta, è alla stregua di Baudelaire, alla stregua di Mick Jagger, di Jimi Hendrix, che pure Jimi Hendrix ad esempio ha fatto una fine peggiore, però non vorrei stare a parlare di questi miti di Jim Morrison. Insomma, Maradona è un grande artista con molti limiti, ha fatto un sacco di errori, ma il punto cruciale è: voi in questo momento indichereste ai vostri figli come esempio da seguire un giocatore di calcio? Io mai nella vita, qualunque esso sia. Quindi il grande errore è questo: Maradona non deve essere un esempio per nessuno, ma Balotelli non deve essere un esempio per nessuno, ma nessuno di questi giocatori, di questi sportivi al massimo livello deve essere, dal punto di vista così della condotta di vita, un esempio per nessuno. Io ho l'immagine di Maradona sul campo ed era arte contemporanea in movimento. Io, è questo che dico, personaggio di carisma estremo. Io mi limito a questo. Poi i suoi errori, fin troppo messi in piazza, pubblicizzati, scannerizzati con grande malizia, ecco, di quelli non dico me ne importa poco, però stanno sullo sfondo e stanno per quelli che vogliono a tutti i costi trasformare gli sportivi in idoli assoluti e tout court, cosa che io non condivido. Filippo Maria Ricci dalla Spagna, la corazzata blaugrana affonda. Ciao Filippo. Buon pomeriggio, sì, siamo in la debacle. Senti, ma l'immagine del Barça è Puyol scherzato da De Maria, che goffamente arranca e poi cade a terra prima dello 0-2 di Ronaldo? Quella è una delle immagini, come qui ricordavano, un grande dribbling di Romario, maglia del Barcellona, contro Rafael Corta, difensore del Madrid, un altro famoso classico, in quel caso stravinto dal Barcellona. Ci sono immagini sì, che restano lì, no, no, nella memoria. E fa male, perché dispiace, perché comunque Puyol è un grandissimo giocatore e probabilmente poi farà ancora delle grandi partite, però ieri sera è una delle immagini. L'altra è questo Messi così, spento, che non riesce a combinare nulla, però cosa gli vuoi dire a uno che ha fatto 49 gol questa stagione, no? E questo secondo me alla fine il problema del Barcellona è lì. Hanno un solo modo di giocare, dipendono tantissimo da un giocatore che cosa fai? Non lo fai giocare perché non è tanto in forma dopo che ha fatto tutti questi gol. C'è sempre stato il problema della mancanza della guida in panchina, Filippo. C'è sempre stato il problema. Il problema è che adesso, guarda, Oggi sono partiti e il viaggio era già programmato. Vanno il presidente Rosell, Zubizarreta, un vicepresidente, sono andati a New York. E qualsiasi squadra, perché poi sai, qui si è fatto molto, anche i giornali catalani hanno molto spinto, sì, autogestione, ce la fanno, sai, c'è uno come Xavi che ti guida, sono bravi ragazzi, seri, ce la fanno a stare da soli. No, manca un allenatore. Si è visto anche ieri sera, si era visto a San Siro. E si è creata confusione, nel senso, non lo so, a San Siro l'unico cambio è Alexis Sanchez. Ieri era in tribuna, cioè, allora poi l'altro ieri alla vigilia attacco all'arbitro, cosa mai vista da parte del Barcellona. No, cioè, ma certo, ma poi c'è confusione sotto il cielo blaugrana. C'è molta confusione, anche se oggi Iniesta dice mano sul fuoco che il 12 di marzo siamo pronti e asfaltiamo il Milan e passiamo noi. Ma se ti butto lì, sì, un'idea. Cosa devi dire? Sono dichiarazioni di partito, tanto in questo periodo vanno di moda, non abbiamo più neanche il silenzio. Lui cosa deve elettorale. Dire? È chiaro che deve dire così, e poi voglio dire, attenzione, può anche essere, però un Barcellona così non lo si vedeva dai tempi pre-Guardiola, una crisi di questo tipo, no? Quando Fabio Capello col suo epico catenaccio e una formazione decisamente, diciamo, inferiore a quella del Barça, riesce a vincere il campionato del 2007, e dopo scatena una crisi del Barcellona, poi va via Rijkaard e chiamano Guardiola. Insomma, siamo a quei livelli lì e la situazione è grigia. Poi è chiaro, magari questa è una squadra che ha talmente tanto talento, certo, talmente tante risorse, non... del mondo. Senti Filippo, te la butto lì così, mi dai una risposta secca, anche perché devo lanciare la borsa. Luis Enrique non potesse tornare a Villanueva in tempi utili? No, per me è ancora prematuro, però sicuramente ci stavo pensando prima, una soluzione va trovata. Non so se Luis Enrique è la persona giusta, perché c'erano problemi con Guardiola, c'erano problemi. Adesso bisogna vedere, no, con Villanova era molto legato a Guardiola, non so come vanno le cose, però secondo me no. E comunque adesso Luis Enrique è a fare una mega maratona, non so dove, in Sudafrica, per i prossimi 10-15 giorni, perché lui fa queste cose, queste missioni impossibili. Per cui secondo me al momento no, poi vediamo. Vabbè, poi vediamo. Grazie Phil. Ciao, un abbraccio. Ciao. Tutti convocati. Indovini chi li ho preso? Chi? Mara, c'è mia moglie. Maradona! Maradona! Per essere corretto. Il tuffo è quello di Nino Bambi che svieni in questo film che tutti avrete visto più e più volte. 800240024, vostro numero verde, cari amici convocati. Non sono neanche d'accordo con quelli che mettono Zanetti, il pur grandissimo, irreprensibile in campo, capitano dell'Inter. Però chi di voi conosce Zanetti fuori dal campo a sufficienza per dire è un modello di stile, di vita, di uomo? È certamente un grande modello di professionista, però nessun giocatore di calcio, secondo me, può essere indicato ai nostri figli come modello di vita, perché sarebbe sbagliato, sarebbe indurli in una tentazione più grande di loro. Gli sportivi devono essere presi per quello che sono, per quelli che ci fanno vedere, per quello che sono sul campo, punto e basta. Su Twitter ci scrivono, mi fa piacere ricordarlo, che la Famila Schio di basket femminile questa sera sfida in gara 3 il Rivas e Copolis Madrid per l'accesso alle Final 8 di Eurolega, quindi grande tifo per le ragazze di Schio. Ma vorrei tornare, oltre che a voi, 800240024, oltre che sui problemi del Barça, su Napoli-Juventus in prospettiva, in controluce, ancora un po' di lontano. Maradona, Simmeglia Pelé, Simmeglia Pelé. Il paragone di Messi, io non me la prendo mai con questo. Con Pelé sì, perché a Pelé non lo perdono, non per il suo colore, per quello che parla. Perché quando prende il frasco di pastiglie buono, parla bene. Però quando se ne cambia il frasco, dice qualsiasi stupidaggine. Il frasco di pastiglie. Vabbè, una lunga diatriba tra... Sembrano ormai Jack Lemmon e Walter Matthau. Io parteggio tutta la vita per Maradona, perché a me Pelé è cordialmente antipatico per molte vicende che, insomma, note o meno note, che sono state sottaciute, però mi sembra un uomo molto meno trasparente rispetto a, a Diego Armando Maradona. 800240024, poi vi faccio sentire anche, anche il parallelo, il paragone con Messi. Però prima Vittorio da Parma, buongiorno. Buongiorno, ciao Carlo. Ciao. No, ti do pienamente ragione, anche perché io ho avuto una delusione da parte di Maradona che è stata storica. Mi sembra che fosse l'anno 90, non ricordo bene, il Parma era il primo anno di Serie A. Mm. Io andai a Salso Maggiore perché sapevo che arrivavano i giocatori del Napoli. Mm. Ero un ragazzino di 18-19 anni. E quando Maradona venne giù dall'albergo, non so quale, ovviamente, chiesi insomma di stringergli la mano e mi disse di no. Mm. Fu per me una botta morale che me la sono portata avanti, non so se 2 o 3 mesi, ma proprio stavo male, completamente male. Mi consolai con un grande abbraccio di Gianfranco Zola, che chiese anche lui in modo timoroso, perché avevo paura che mi dicesse no anche lui, e chiese a Gianfranco: Gianfranco, posso stringerti la mano? E mi disse per bacco e mi abbracciò. Da quel giorno lì valuto le persone in maniera diversa, non quello che fanno vedere, ma per quello che sono. Sì. Tutto qua, saluto. Anche se, saluto anch'io Vittorio da Parma, magari, che ne so, quel giorno Diego aveva, insomma, aveva i problemi suoi, non lo so, non so. Mi sembra un po' troppo rimanere male in quella maniera, ma anche chiedere una stretta di mano, cosa cambia, insomma. Mi sembra, ripeto, troppo per rimanerci male, anche se ieri ho visto su uno striscione "Sogno da una vita di stringerti la mano". Queste forme di follia, queste forme di mania, io le condivido poco. Devo dire invece che Maradona comunque è sempre stato, nonostante il gran circo, il gran casino che c'è sempre, che ha sempre aleggiato intorno a lui, è sempre stato uno estremamente disponibile, soprattutto nei confronti dei suoi compagni. Infatti voi non avete mai sentito e non sentirete mai uno dei suoi vecchi compagni parlare male di Diego Maradona, che pure si allenava quando voleva, che pure faceva gli affari suoi, che pure era il capo clan e così via. Non solo perché li faceva vincere, ma perché li faceva sentire grandi quanto lui. Io ho sempre avuto da lontano questa impressione. Nicola, Napoli. Ciao, tutti convocati, ci sono anch'io. Eccoci benissimo, qua. Grande Nicola. Pronto? Più forte Maradona o Messi? Più forte Maradona, non c'è alcun dubbio, assolutamente. Non se ne parla neanche. Assolutamente di parte. Non se ne parla neanche, tanto che, caro Nicola, te lo faccio sentire, lo dice anche lui. Come persona, Leo Messi per me è un grandissimo ragazzo, però, come ha detto mia madre, io sempre credo che sono il migliore. Nico? Assolutamente sì, così è. Così è. No, ma lo penso, cioè per ora sembrerebbe di sì, poi appena Messi vince un mondiale e riesce a segnare le squadre italiane, allora probabilmente. Sì, poi, no, appena vince un mondiale con una squadra di fabbri picchiatori. Chi si ricorda gli altri 10? Chi si ricorda gli altri 10 compagni di Maradona ai suoi tempi? Più o meno io. E tu anche a Pelé, no? Sì, no, vale anche il discorso Maradona-Pelé, più o meno me ne ricordo io, da Battista a Cucciuffo, da Burruciaga che era un buon giocatore, a Valdano che era un buon giocatore, a un sacco di Carneadi che valevano quanto valevano, come la storia del calcio ha poi raccontato, una banda di senza terra, una banda di, insomma, di predoni, e Diego Maradona che vince un mondiale da solo, ma Diego Maradona che viene a Napoli non certo nella squadra più forte d'Italia e porta a Napoli quello che riesce a portare. Poi ovviamente progressivamente Napoli si rinforza eccetera eccetera, però vincere 10 scudetti con questo Barcellona è cosa diversa rispetto al vincerne 2 a Napoli. Su questo siamo d'accordo, il parallelo è quello lì. Poi? Volevo soltanto dire un'altra cosa, però si riferisce proprio riferendo al fatto delle vittorie, poi me ne vado subito. L'altra volta con Rino Tommasi parlavate della differenza con gli sport americani, no? Però dei campionati nazionali di calcio. La differenza sta nei playoff, come avviene con la Champions League. Sì. Perché finché da noi il campionato si giocherà così, vinceranno sempre le squadre a strisce. Vinceranno sempre le squadre a strisce. Io a me piacciono molto i playoff. Mi piacciono molto i playoff, però ci sono sport che poco si adattano ai playoff, come il calcio. Per come è stata utilizzata la formula dei playoff, l'abbiamo visto molte volte in Serie B. Nel pallone non è una cosa che mi attira. Innanzitutto perché bisognerebbe eliminare il pareggio, no? E quindi giocare una serie al meglio delle 3-5 partite. Secondo me è una formula che con il calcio c'entra relativamente poco. Poi se vinceranno sempre le squadre a strisce, non lo so, non è detto che poi non vincano anche con l'alea introdotta ed indotta dai playoff. Giovanni Milano, 800240024, numero verde. Carlo, buongiorno. Buongiorno. Intanto ti faccio gli auguri per domani, se non mi sbaglio. Per cosa? Per il compleanno. Grazie. Peccato che non c'è il mio. Sono nato nel giorno che non c'è e sono molto attaccato al giorno che non c'è. Allora mi sono sbagliato io. Comunque volevo fare invece un dualismo tra Maradona e Zico, che io ho visto a Marassi. Sì. Una delle prime volte con la maglia dell'Udinese, un 5-0 sì, clamoroso, che sì, ha lasciato tutti sì, a bocca aperta, è uscito tra gli applausi di tutto il pubblico. Era un grandissimo giocatore anche secondo me lui. Non è stato altrettanto un buon allenatore, forse come i grandissimi numeri 10 spesso lo sono, insomma. Sì, ma guarda che anche lo stesso Van Basten al momento non ha combinato poi tutto sto granché come allenatore di calcio. Se no, parliamo infatti, poi in di giocatori anche di quelle Ballardini addirittura, quindi. Sì. Certo. Ringraziando Dio, finalmente al terzo allenatore forse. Sì. Poi ci sono esempi contrari, sai, da Donadoni a... ne abbiamo tanti, no? Ne abbiamo tanti. Era gente un po' più concreta, forse da un certo punto di vista, sia in campo che fuori. Grazie a tutti. A te Giovanni, un abbraccio. Un altro Giovanni, provincia di Cremona. Carlo, buongiorno. Ciao, dimmi tutto. Mi permetta di sentire sul fatto che non consiglierebbe ai suoi figli di prendere come esempio dei calciatori. Io le porto per esperienza personale la vicinanza alla moglie del più grande allenatore che abbiamo in questo momento ai vertici del calcio italiano, che è Cesare Prandelli. Sì. Un esempio di uomo innanzitutto, prima di essere un esempio come calciatore. Per cui, come vede, la percentuale, probabilmente ha ragione lei, ed è elevata di modelli da non seguire, di showman calciatori. Ma ci sono anche delle persone, prima di essere calciatori come Cesare, che hanno vissuto una vita di equilibrio e di professionalità incredibile. Sì, poi bisogna conoscerli bene, insomma, bisogna conoscerli in maniera approfondita. È chiaro che il mio discorso è un discorso generale e come tutte le generalizzazioni si presta ad eccezioni, ma resto convinto della mia idea, cioè non devono, ma non è nemmeno loro richiesto di essere dei modelli per i ragazzi, non è chiesto loro, così come non è chiesto agli attori, così come non è chiesto alle rockstar di essere degli esempi per qualcuno, e li trovo comunque esempi lontani dalla realtà e tutto sommato fuorvianti. Tutti convocati. Ma no! Ascoltano via SMS anche altri nomi di quell'Argentina, di illustri sconosciuti che poi rimasero tali dell'86, o l'Artico Ecea, Brown Ruggeri, me li ricordo tutti, una banda di così di fuorilegge del pallone che Maradona portò al titolo mondiale. Dunque l'Inter ha bisogno di una punta. Fuori mercato, valgono soltanto quelli che non sono sotto contratto. Cosa facciamo? John Carey, ma ha giocato nella Roma, centravanti non certo indimenticabile nemmeno quando faceva il centravanti ed era in condizione. Adesso che fa Carey, che è stato invitato per una settimana ad allenarsi con l'Inter? Come stai? Bene. Bene. Sei in forma? Sì, sto bene. Com'è questa opportunità dell'Inter che è uscita? Se la vita? Sì, sto bene. Bisogno di allenare un paio di settimane con la squadra, ma mi sento bene. Questi mesi cosa hai fatto? Viaggiando molto e fatto un film. Fatto un film. No, su Twitter aveva scritto, c'era un'altra possibilità di ingaggio, non mi ricordo da parte di che squadra, forse una squadra spagnola, e lui poco tempo fa aveva twittato, beh, potrei essere in forma per maggio. Ma al di là di questo, se volete vedere il film, con un pezzo di film con Kerry, non so se è un film o se è un video musicale, un promo di un film a luci rosse. Se volete vedere il tatuatissimo Kerryu con due smandrappone altrettanto tatuate, andate su YouTube e vedete cosa ha fatto Kerryu in questo periodo. Moratti non mi sembra esattamente convinto, Sono informato anch'io. Credo che le visite le stia facendo. Domani dovrà fare quelle al CONI, la federazione, insomma, quelle di donna. E poi sto qui, farò una prova di un paio di settimane e poi decidiamo. No, il tecnico ha detto, lo fate o vado via. Concertazione c'è sempre, non esiste qualcuno che dica fatelo, è chiuso. E abbiamo cercato di capire, anzi il tecnico devo dire che forse è l'ultimo che ha fatto, che ha insistito per questa cosa. Bene bene, oh! Tecnico è l'ultimo che ha insistito per questa cosa, e te credo, dopo aver visto magari il video di Kerryu con le due smandrappone di cui sopra. 800 24 00 24, mi dice Roberto Scatriti, sei invidioso, molto lo ammetto. 800 24 00 24, numero verde per intervenire, e tra poco di Maradona, con Maradona abbiamo finito? C'è più niente? Sul fondo del barile? Sentiamone un altro, dai, via. Che significa essere Diego Armando Maradona? Non essere careca e alemão. Poi, tanto è Maradona Day, quindi stiamo aspettando un Napoli-Juventus che ci dirà tutta la verità su questo campionato, l'impressione. La Juventus, come sapete, basta guardare la classifica, è sufficiente un punto per staccarsi in maniera abbastanza definitiva per eliminare in maniera abbastanza definitiva la concorrenza del Napoli. Matteo Pescara, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao. Buongiorno a tutti. Niente, io volevo intervenire su Maradona. Sicuramente stiamo parlando dell'Olimpo, del calcio, cioè ci mancherebbe altro. È ovvio che la sua vita privata poi gli ha dato una ridondanza, secondo me, maggiore rispetto ad altri campioni. E per una questione di campanilismo, insomma, volevo citare il nostro Roberto Baggio, che secondo me non è affatto, diciamo, inferiore al più popolare Maradona, sicuramente, ecco. Baggio come Maradona? Beh sì, secondo me è anche meglio, insomma. Baggio meglio di Maradona? Beh, meglio di Maradona, assolutamente meglio di Maradona. Io sono straconvinto di questo. No, va bene, non voglio toglierti le tue convinzioni. Non condivido, perché Maradona è stato il più forte di sempre. Baggio è stato un grande giocatore, è stato un grandissimo giocatore, un grandissimo campione, un grandissimo fuoriclasse, però una certa distanza sul campo tra Baggio e Maradona io la vedrò sempre. Solo anche, ecco, ricordiamo USA 94, sì. Magari se quel rigore fosse finito in rete, oggi si parlerebbe di Baggio magari ai livelli di Maradona, ecco. Poi è veramente una particolarità, un qualcosa che fa di un campione. Poi parliamo sempre dell'Olimpo, ci mancherebbe, Maradona, sì. È lì, se non il primo e secondo, insomma. Sì, dietro a Baggio. E Pelé è terzo. Pelé secondo me è ventesimo, trentesimo, quarantesimo. Messi lo metto tra i primi cinque di sempre. Dietro, ecco. Baggio però sempre. Sì, sempre assolutamente dietro il nostro connazionale. Vabbè, troppo campanile, secondo me. Troppo campanile, onestamente, troppo campanile, con tutto il bene che possiamo volere a Robertino Baggio. Antonio Ferrara. Sì, buongiorno, Granzini. No, Carlo Genta, uguale. Dica. Carlo Genta, scusa. No, allora, io sono argentino, ho conosciuto personalmente Maradona e posso garantire che come giocatore è stato un grande, non si può mettere in discussione, come persona ovviamente un po' meno. Mi sentite, no? Sì, sì, come no? Io ho lavorato in un albergo abbastanza importante in Argentina, cui lui veniva spesso a mangiare, gli ho dato diverse volte, come ti ho detto prima, molte volte era gentilissimo e molte volte era proprio di un'arroganza unica. È molto lunatico, lui purtroppo è nato una famiglia un po' disagiata, ovviamente se parliamo di Messi è tutta un'altra storia. Messi è un altro grandissimo giocatore, ha avuto un'altra famiglia, un altro carattere, un altro ragazzo, e non, dal punto di vista così umano mi viene da dire, anche se è una parola, la prima parola che mi viene in mente, ma è certamente sbagliata, dal punto di vista umano non sono raffrontabili Messi e Maradona, questo è indubbio, ma appunto Messi ha avuto una storia diversa da quella di Diego. Questo è. Anche se pure per me si vale il discorso fatto prima, cioè non mi sentirei di dire a mio figlio idolo Messi devi essere come lui, devi comportarti come lui, certamente sul campo di calcio non per tutto il resto, perché per tutto il resto non lo possiamo sapere, non lo possiamo conoscere, quindi ma indicare come idoli questi personaggi così esposti mediaticamente, perché non sappiamo mai e non possiamo mai sapere, ed è giusto che non si sappia cosa c'è dietro di loro. Abbiamo un'ultima battuta di Dieghito, poi c'è Enzo a provincia di Roma e poi aggiorniamo la seduta domani. Sì, hanno pagato per Pastore, hanno pagato 45 milioni. Io costerebbe in questo momento no, meglio di no, perché sennò il fisco forse viene dietro di me. Il fisco ci piglia dalle mie. Sì. No. Non ha fatto una valutazione, forse bisogna chiederla a Moggi, che un giorno molto lontano disse avesse avuto Maradona oggi l'avrei venduto per 100 milioni, ma questi sono, ripeto, discorsi lontani e da fare probabilmente lontani dalle orecchie del fisco. Dieghito non ha torto. Maurizio da Modena. Buonasera Carlo. Buonasera. Dire questo, insomma, sono un po' emozionato perché è la prima volta dopo tanto che riesco a chiamarvi e qualcuno mi ascolta. Ma Maradona è meglio per me. Io sono di Modena, sono tifoso del Modena anche se siamo in Serie B da anni, però quando c'è il grande calcio, tipo la settimana scorsa sono andato a vedere Messi che ha deluso tantissimo, ma credo che siano episodi. Volevo solo allacciarmi al discorso del fuori del calcio. Lo scorso anno è venuto l'Italia a Modena, scesero a Modena in stazione, eravamo tutti ad aspettare la nazionale, l'unico giocatore indisponente e poco aperto alla gente, ai bambini, è stato il signor Cassano. E questo mi sorprende zero. Questo mi sorprende zero perché... questo non è un uomo, questo è un uomo piccolino. Quando tutti gli altri hanno abbracciato bambini, signore, era una festa, lui si è spostato. Quindi mettiamolo con i miti dei giocatori, non ce n'è neanche uno che si sa di fuori. Bravo. Sono tutti arroganti e poco seri verso la gente che ama questo paese, ama il calcio e avrebbe bisogno di più attenzione da parte loro. Ma sì, tutto, ma anche perché una parola, una carezza, una stretta di mano a loro non costa veramente la nulla. Questo atteggiarsi da rockstar, ma questo vale da molti punti di vista, vale dal punto di vista dell'approccio con la gente che magari spende del tempo e dei soldi per andarli a salutare, vale dal punto di vista mediatico, perché vi assicuro che è molto più difficile parlare o farvi parlare, perché questa è la parte più bella, con uno di loro che non con un qualunque politico. Vabbè, discorsi che rifaremo. Franco Piantanini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia e Maradona, grande protagonista. Ci sentiamo domani. Meglio soli che mal accompagnati, non è questo qui, anzi assolutamente. Però voglio dire... Non è riferito a me. No, riferito a tutti i gufi che girano. Comunque, adesso al di là di tutto quanto... Quali gufi, Presidente? Ma no, questi gufi, visto che noi abbiamo l'Aquila, noi combattiamo i gufi, lo sanno come funziona.